Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Secondo appuntamento questa settimana insieme all'Adico, l'Associazione Difesa Consumatori di Mestre. Anche oggi ritroviamo al telefono il presidente Carlo Garofolini. Ciao Carlo, benvenuto. Ciao Francesco e un saluto a tutti gli ascoltatori. Allora, in questa puntata di cosa parliamo? Parliamo di gasolio? Allora Francesco, come potranno notare anche i nostri ascoltatori, ci stiamo occupando molto di quelle che sono le tematiche delle vacanze. Questa volta abbiamo voluto fare un monitoraggio sulla provincia di Treviso per verificare un po' l'andamento dei corsi del carburante e del gasolio alla pompa rispetto all'anno precedente, cosa che abbiamo fatto anche nelle altre province, ma avendo i primi dati da consultare a Treviso, chiaramente volevamo approfittare di questo intervento che facciamo regolarmente proprio per annunciare come il prezzo del rifornimento è calato rispetto all'anno precedente. Sì, di questo me ne sono accorto anch'io, ma penso anche quelli un po' più attenti, quando si va a fare il pieno della macchina si cerca di risparmiare qualche cosa preferendo una stazione di servizio piuttosto che un'altra, e quindi poi su un pieno significa risparmiare anche dei bei soldini. Sì, i bei soldini, perché se pensiamo che rispetto a luglio 2014, per esempio a Treviso costava in media 86,25 euro un pieno di benzina e oggi siamo a 79,60 euro, quindi abbiamo circa 7 euro di differenza, e addirittura questa differenza diventa di oltre 8 euro se pensiamo al gasolio. Chiaramente 8 euro su un pieno, cioè, non saranno grandissime cifre, ma se pensiamo al periodo vacanziero e quello che insomma pagavamo l'anno scorso, sicuramente è un dato che può incoraggiare anche le persone a spostarsi un pochino, magari facendo anche attenzione a quelli che sono le zone e i giorni di alto rischio per effetto del traffico, che insomma bisogna un attimino avere pazienza di informarci. Ecco, una cosa che dobbiamo ricordare è che insomma il prezzo del petrolio al barile si è abbassato, poi piano piano, ci vuole sempre un po' di tempo, scendono anche i costi alla pompa, anche se tuttavia paghiamo sempre tantissime tasse. A proposito di tasse, c'era la notizia all'inizio della settimana di Zaia che voleva istituire un fondo sulle catastrofi e alzare proprio di 7,5 centesimi il prezzo del gasolio. Lo ricorderete tutti, era sui giornali di lunedì. Speriamo che questo non succeda, perché si andrebbe ad aumentare insomma notevolmente il costo del trasporto, sia pensiamo al trasporto delle persone ma anche delle cose, e quindi tutto questo andrebbe a incrementare l'inflazione. Beh, innanzitutto diciamo che la proposta per noi è ridicola, perché oggi si pagano già tante accise inutili, pensiamo alla missione in Etiopia come la tragedia sul Vajont, per cui al limite la cosa più intelligente che si poteva dire era dirottare quelle che erano accise istituite tantissimi decenni, e parliamo di decenni fa, a quello che è un problema di oggi. Seconda cosa, non capiamo come mai il governo abbia stanziato 500 milioni di euro per salvare la Sicilia dal buco fallimentare della regione, quando per il terremoto in Veneto ne ha stanziati neanche 7, per cui penso che l'intervento si debba ricercare in modo diverso e non farlo cadere sempre nelle tasche di chi insomma fatica già arrivare a fine mese ed è ben falcidiato dalle tasse. Riteniamo comunque l'informazione che ha dato riguardo il prezzo per petrolio molto interessante, però diciamo che comunque rispetto al prezzo che paghiamo dovremmo cercare di diminuire almeno un altro 10%. Ecco, un consiglio da fare e da dire è cercarsi le pompe, quelle particolari che sono totalmente self-service, dove la benzina costa un po' meno? Sì, le pompe bianche o i self-service sono sempre delle ottime scamotage per pagare qualcosina meno, e per cui è da ricercare come soluzione. Poi ricordarsi che invece un rifornimento in autostrada lungo le tangenziali normalmente c'è un costo più sensibile rispetto alla soluzione precedente. Va bene, insomma, facciamoci il pieno della benzina con un po' di oculatezza, scegliendo la pompa che ci conviene di più, e non aspettiamo sempre l'ultimo momento, come spesso capita, dove sei costretto a farla perché sei agli sgoccioli. Grazie quindi al presidente Carlo Garofolini, che ritroveremo anche la settimana prossima, la settimana di, come dire, in prossimità del Ferragosto, dove saranno comunque sempre molte le macchine che si muoveranno per le vacanze. Grazie a te Francesco e un saluto a tutti gli ascoltatori. Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Per riascoltare questo programma vai su bluradioveneto.it.